E ora scriviamo. A. Ascolta il testo. Guglielmo Marconi è fisico e inventore. Nasce a Bologna nel 1847. Realizza e perfeziona il telefono senza fili. Nella villa paterna di Pontecchio inizia le sue esperienze sulle onde elettromagnetiche per stabilire comunicazioni a distanza senza fili. Nel 1895 ottiene i primi risultati. Trasmette e riceve segnali a circa 2 km di distanza e nel 1898 inventa il sistema sintonico. Nel 1901 effettua il primo collegamento radiotelegrafico transatlantico stabilito fra Poldhu, Cornovaglia, e San Giovanni di Terranova, Canada. Nel 1909 è premio Nobel per la fisica ed è il primo italiano a ricevere questo riconoscimento. Nel 1914 è nominato senatore a vita. Nel 1930 diventa il presidente dell'Accademia d'Italia. Muore a Roma nel 1937.